Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il mio non è solo un distributore di caffè o di bianchini. È anche e soprattutto un luogo di incontro. Ci sono gli abitué e i turisti, i chiacchieroni e le compagnie. La sera prima avevo scambiato qualche parola con un tale che non dimostrava i suoi 80 anni e che mi ha parlato per un paio d'ore dei bei tempi andati, di donne, di guerra e di quella volta che era stato accarezzato da Hitler. 20 anni, vengo da Genova e faccio il barista. Si chiama Leonardo, perché non si era sentito. Ma rimandiamolo così si sente. Si chiama Leonardo, fa il barista, perché oggi credo che Leonardo non ci sia, vero? Oggi non c'è Leonardo al telefono, che peccato. Sono Leonardo, ho 30 anni, vengo da Genova e faccio il barista. Bravo, Leonardo ha 30 anni, viene da Genova e faccio il barista, perché questo è un programma in cui si raccontano delle storie delle persone che hanno voglia di raccontare quelle storie e che le mandano a questo, all'indirizzo di questo programma. Voi siete qui, @radio24.it, una storia semplice in una pagina che racconti un piccolo episodio e in cui ci sia, ma quello in un modo o nell'altro lo troviamo, un cuore. Il cuore della puntata di oggi, aspetta, non di cuore non intendo che ci sia dell'emozione, no, intendo proprio un cuore, un argomento, un tema che parli di qualcosa, chiaramente, quell'episodio. L'episodio di cui parlo oggi e di cui vi racconto oggi e che ha mandato proprio Leonardo è quella situazione in cui ci si è trovati o ci si trova a volte, in cui semplicemente, anche non volendolo, si fanno conoscere delle persone, si fanno incontrare delle persone che per lo più poi diventano delle coppie. Il caso di Leonardo è molto semplice, perché lui fa il barista e in questa storia ci racconta di come un giorno fa incontrare due persone e tra quelle due persone poi succederà qualcosa. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it, sul profilo Facebook del programma sono arrivati un bel po' di messaggi a proposito di questo argomento. Carla dice: è successo, l'ho fatto, sono artefice di una coppia, loro adesso hanno un bambino di 8 anni. E poi questa è Cesare. Dice: in gergo milanese questa attività, cioè quella di far incontrare delle persone che poi banalmente viene definita cupido, questa attività si identifica con la frase fare da 5 e mezzo, detta in dialetto milanese, che credo sia 5 e mezzo, fare da 5 e mezzo, più o meno, non sono milanese, ma non chiedermene l'etimologia. E poi mi hanno detto che in caso di matrimonio dei due, il 5 e mezzo, al 5 e mezzo deve essere regalata una camicia. Chiunque sappia che cosa voglia dire 5 e mezzo, da dove arriva e se è veramente una tradizione, 349-238-6666. Involontariamente un amico gentile, questo messaggio è arrivato prima, addirittura prima della diretta, Elisa. Involontariamente sì, mi è successo, un amico gentile che accompagna il mio futuro marito amorosa da me. Cosa vuol dire? Accompagna amorosa da me. Cioè che lo... No. Accompagna amorosa da me. Forse manca una L. Accompagna l'amorosa da me, la mia amica che senza di me si annoia, e puff, dopo 8 mesi loro due si sposano. Io invece mi sono sposata 3 anni dopo. Mio marito è venuto a abitare nel mio paese, eccetera, eccetera. Mentre ogni tanto rifletto al fatto che lui, quel mio amico, è ancora da solo. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. Ce n'era un altro che mi piaceva di messaggio, ed è questo qua, Damiano. Presentati, fidanzati e promessi sposi fino a 20 giorni dal D-Day. Il D-Day credo sia il matrimonio, l'M-Day probabilmente. E sono lasciati 20 giorni prima. Ho incorniciato la partecipazione spedita 4 mesi prima. 4 mesi? Ma sono tanti 4 mesi prima per mandare una partecipazione di noi. No, però si fa così. Si fa così, Rudy, tu cosa ne sai? Rudy non ne sa proprio niente. Maria, io ho trovato il moroso. Ma siamo nel 2011, si usa ancora il termine moroso, eh? Ho trovato il moroso grazie a due miei amici e infatti ogni tanto ce lo ricordano, è merito nostro. Ogni tanto il mio moroso prova a ricambiare facendo conoscere dei suoi amici e la mia amica ancora single, ma non ci becca mai. E vabbè, qui storie. Quanta sentimentalismo e quanta tristezza anche un pochettino. 349-238-6666, torniamo a Leonardo, alla sua storia che si intitola 1950 e parla proprio di quella cosa lì. Sono le 19.50 e fa molto caldo. Che è normale, perché è luglio e siamo in Liguria. Il tramonto, anzi, quel periodo che lo precede, è il momento della giornata che preferisco. È l'ora che non è più e che non è ancora. Non è più ora di spuntini, però non è ancora ora di cena. È l'ora in cui molti non sono più al lavoro, ma non sono neanche ancora a casa. È l'ora in cui non è più giorno, ma non è ancora sera. Ed è anche l'ora in cui il mare di luglio è liscio, stanco, sottile e colorato dei colori che piacciono a me. Le 19:50 è l'ora in cui sono nato. Fa un gran caldo oggi e vorrei fare il bagno. Il mare è a pochi metri, ma in questo momento ho un dovere. Ho un lavoro e un banco che mi divide dall'acqua. Il banco è quello del mio bar, quello che gestisco, che mi consente di guadagnarmi da vivere in riva al mare. Il mio non è solo un distributore di caffè o di bianchini, è anche un luogo di incontro. Ci sono gli abitué e i turisti, i chiacchieroni e le compagnie. La sera prima avevo scambiato qualche parola con un tale che non dimostrava i suoi 80 anni e che mi ha parlato per un paio d'ore dei bei tempi andati, di donne ma anche di guerra, e di quella volta che è stato accarezzato da Hitler. Minchia, mi sono lasciato scappare. Mi ha detto che lui era un balilla durante la visita a Roma ed è stato passato in rassegna dal Führer, con tanto di carezza sul Fez. Mi è venuto in mente il film Bastardi senza gloria, ma quando sei bambino non capisci bene quel che succede intorno a te. È stato lì fino alle 2 del mattino a parlare. La mia attenzione però si era esaurita dopo la storia di Hitler. Comunque era energico il vecchietto. E sciocco io a non mettergli un freno prima e a servirgli caffè invece del vino rosso. Stasera invece ci sono più giovani. Cocktail e patatine, voce alta e voglia di tenerezza. Al tavolo sotto la palma, vicino al mio bancone, per esempio, ci sono due ragazze. Stanno bevendo uno spritz. Beh, lavorare d'estate mentre gli altri sono tutti in vacanza è il modo per portare a casa un po' di soldini e risparmiare qualcosa, però allo stesso tempo un po' una sofferenza con tutti gli amici che ti vengono magari a trovare o ti salutano da fuori, da lontano, mentre tu stai lavorando e loro si divertono in giro. Una delle due ha il viso puntuto, tutta spigoli e angoli dritti. Un bel tipo. L'amica ha l'aria insofferente, il viso paffuto e lo sguardo antipatico. Giocherella con il cellulare aspettando chissà quale messaggio, ma nessuno le scrive. Io chiedo le solite cose, di dove siete, quando state, di cosa vi occupate, anche se da quando erano arrivate avevo già capito. Ragazze della provincia di Milano, weekend al mare e l'università, tra scienze sociali e economia. La puntuta in effetti fa medicina, ma con l'altra ci azzecco in pieno. Al bancone c'è un ragazzo, sta bevendo una birra. Se ne sta in disparte, ma si vede che sta cercando con lo sguardo la ragazza tutta spigoli. Lei se n'è accorta. Il ragazzo lo conosco, è uno di qui, tipo tranquillo, educato, e quasi sempre da solo. Inizio a parlare con lui del più e del meno, più che altro del meno, che è poco impegnativo e lascia più libertà di azione. È tifoso del Genoa e io mi lascio scappare che con tutti i giocatori che ha regalato in giro, tra Milan e soprattutto Inter negli ultimi anni, avrebbero potuto mettere su una squadra da prime quattro, altro che. Lui sulle prime un po' si incupisce, poi però difende i colori a spada tratta e io capisco che è il momento di tornare a fare cocktail per i clienti. Calcio e politica sono argomenti che vanno sempre bene, ma solo per i primi 5 minuti. E in più il ragazzo è molto attento alla tizia dello spritz. Vedo che gli sguardi tra loro si incrociano e la cosa mi fa anche piacere. Solo che manca qualcosa, manca la scintilla per far partire il discorso. Ci vuole una specie di diavolina, quella che aizza la conoscenza. E non credete se dicono il contrario, ma ogni barman ha il suo trucco che conosce solo lui per questo genere di situazioni. E io quel mestiere lo faccio da 7 anni. Per un motivo che ancora mi è ignoto, decido che li devo fare conoscere, per forza. E quindi attacco con la storia dei 7 nani, che è il mio metodo. Chiedo al ragazzo timido se sa tutti i nomi dei 7 nani, tutti però, tutti e 7. E scommetto con lui che se ne ricorderà solo 6. Lo dico ad alta voce per farmi sentire, in modo da lanciare la sfida anche alle due ragazze. E in un attimo, siccome il barman è neutro e ti ha appena dato da bere, quindi è simpatico, anche loro si girano e sorridono. E iniziano a dire i nomi, Gongolo, Mammolo, Pisolo e tutti gli altri. Ci vuole pochissimo e cominciano a parlottare. Io mi ritiro e ricomincio ad asciugare i bicchieri usciti dalla lavastoviglie. La ragazza dal viso dritto e il ragazzo timido si piacciono, è chiaro. E ormai parlano come se si conoscessero da tempo. Esco a fumare una sigaretta e quando torno non ci sono più. Al loro posto c'è Luigi, che è il mio amico che passa ogni sera. Gli dico che appena finito andiamo a fare il bagno. Lui dice che va bene. E allora io gli preparo un Pimm's Cup, il suo drink preferito. Beh, a forza di fare il barista, dopo un po' i trucchi che aiutano a far incontrare due persone, che uno vede un po' che si scambiano qualche sguardo, si imparano, insomma. Offrire un cocktail spacciandolo per un drink offerto dal ragazzo per la ragazza, oppure far spostare così casualmente una persona da un tavolino all'altro per avvicinarla a qualcuno, oppure provare a indovinare qual è il drink preferito e portarlo a un tavolo, ecco. Il ragazzo timido lo rivedrò dopo un anno, ancora a luglio. È più o meno alle 19.50. Ci metto un po' a ricordarmi di lui, perché è un po' che non lo vedo. Un anno, praticamente. Dopo qualche minuto, però, arriva anche la ragazza puntuta. Adesso non è più tanto puntuta, anzi, è parecchio incinta. Convivono a Milano, il prossimo anno si sposano. Sorrido, taglio line per i cocktail e ascolto il ragazzo, che è diventato un po' meno timido, e la ragazza, che non è decisamente più puntuta. Prima di andare via e dopo una stretta di mano, lei mi allunga un pacchetto con un fiocco e mi dice: questo è per te. Ringrazio e dico che poi lo apro con calma. Alla solita ora arriva Luigi, mi chiede cos'è quel pacchetto, ed è con lui che mi viene di aprirlo. È un piccolo quadro con i 7 nani. Hanno tutti il cappello marrone, tutti tranne uno, e a me viene da sorridere. Non sono mai stato tanto per organizzare appuntamenti al buio, aperitivi o cene tra amici single. Non ci ho mai avuto quell'anima lì, quella del cupido. Non ho mai visto funzionare questo genere di iniziative intorno a me, se non per qualche raro caso in cui la frequentazione è stata breve e poi ha lasciato strascichi di rimproveri e di infelicità. Che già credo poco all'amore a prima vista, figuriamoci se posso credere all'amore programmato. Semmai magari è meglio come hanno sempre fatto fin dall'antichità, no? I matrimoni combinati. Cioè ti becchi quello che ti becchi e poi eventualmente, se ci sei rimasto male, puoi guardarti in giro, no? Volesse per uomini e donne potrebbe essere anche un modo per mandare avanti la specie e non farsi troppe paranoie. Ma lo so, sono temi delicati e quindi non voglio passare per un cinico che in effetti alla fine non sono. Ed ecco perché vi racconterò invece di quando per davvero ho organizzato un incontro galante tra persone che non si conoscevano. L'ho fatto con la scusa della barca a vela, che è un territorio che più o meno conosco. E l'ho fatto per fare un favore a un amico che ne aveva davvero bisogno. E allora ho messo insieme una settimana intorno all'Elba, un giugno di qualche anno fa. Io facevo lo skipper, la mia fidanzata dell'epoca mi dava una mano. E poi c'era una coppia di amici. E infine questi due. Uno, il mio amico bisognoso. E l'altra era amica della ragazza della seconda coppia. Si sarebbero piaciuti, secondo me era sicuro. E poi, boh, chi lo sa. A noi parevano perfino ben assortiti. La barca però può essere un rischio, ma dover fare un po' di cose insieme è sempre una simpatica maniera di conoscersi. Il problema è che la single era piuttosto bella, e se il mio amico single, sia lui che l'altro, quello accoppiato, si volevano fare un po' grandi ai suoi occhi. Insomma, c'erano davvero troppi galli in quel pollaio. E in più c'era una signora fidanzata con le balle che le giravano a manetta e se la stava già prendendo con me. Vabbè, insomma, ve la faccio breve. La settimana è volata, ma tempo 2 mesi la coppia rodata si è separata e il mio amico singolo ha continuato ad andare a vedere i film al cineforum da solo e gli altri due si sono messi insieme. Insomma, un disastro, no? Verrebbe da dire. Ma non so se poi sia stato un gran male. I due sono ancora insieme, hanno un bimbo e stanno bene. Forse era destino che andasse così. E io sono stato solo una specie di meccanismo involontario, no? Un motore più grosso di me. Alla fine sono stato perfino testimone delle nozze e padrino del figlio. Gli altri, invece, non mi rivolgono più la parola. Che insomma, io non lo so cosa sia giusto fare o cosa no, ma in amore è dura far contenti tutti. E allora, tanto vale non far niente e lasciare che ciò che deve accadere, da solo, accada. To tell me that I look depressed. You wouldn't know me when I'm at my best. I've got a little surprise up my sleeve. I've got a little surprise up my sleeve. I've got a little surprise. Burns, Harry, questo è Sally Albright. Molto piacere. Mi piacciono quegli entusiasti di aver fatto conoscere delle persone. Teresa, ce l'ho fatta. Sentirsi Cupido è galvanizzante. Ma ancora, è una cosa bellissima. 15 anni fa ho fatto mettere insieme ben 4 amici. Tra l'altro, tutti insieme. No, vabbè. 2-2. Oggi sono felicemente sposati con figli. Sono felice. È bello essere tutto sommato per poco, no? Con la felicità degli altri, che in realtà è di solito il contrario. La felicità degli altri ti fa un po' girare il coglino. Cioè, ti fa un po', no? Che vedere gli altri felici è sempre... Perché? Perché non succede a me? 349-238-6666. Il nome dei 7 nani l'ho inserita come domanda in un compito di arte di prima liceo. Ciao Valentina. Credo, spero sia una professoressa, o forse è meglio non sperare che sia una professoressa. E poi, vabbè, uno ha scritto: Matteo, so cos'è il 5 e mezzo, però non ce lo spiega. Poi 5 e mezzo forse perché deriva dal gioco delle carte, 7 e mezzo. È lui che abbiamo al telefono. Chi è che abbiamo? Gianluigi, provincia di Monza. Pronto Gianluigi? Ciao, ciao Matteo. Ciao, come stai? Ciao, bene, bene, bene. Senti, strada del 5 e mezzo che è da... Sì, non c'entra niente però con le carte. No, no, che cosa c'entra allora? No. Allora, c'entra con l'orario di lavoro, cioè il termine dell'orario di lavoro, no? Cioè, allora, aspetta, facciamo un passo indietro. Sì. Visto che stiamo parlando della questione di far incontrare delle persone, certo. In milanese si dice che fare 5 mes vuol dire essere quello che li ha fatti conoscere, giusto? Ah, e Gianluigi esatto, ci sta spiegando il perché. È perché praticamente le due persone, o inconsapevolmente o anche consapevolmente, venivano fatte incontrare sul posto da questo trade union praticamente dopo l'orario di lavoro, che era circa le 17:30, perciò le 5 e mezza. Ma quindi ipoteticamente colleghi? No. No, non c'entravano niente, cioè due persone che questo trade union conosceva e sapeva che erano single, li convocava dopo l'orario di lavoro. Ho capito perfettamente. Guarda, oggi praticamente il cupido che veniva chiamato 5 mes viene chiamato aperitivo, nel senso che dopo il lavoro li fa incontrare l'aperitivo, giusto? Esatto. E dopo l'orario di lavoro. Esatto. Che poi sono, perdonami, sto per eccitarmi per il fatto che il titolo del racconto di oggi è 19:50 e quindi sembra fatto apposta, Gianluigi. Sì, sì, guarda, sono eccitato tanto quanto quello che ha fatto conoscere 4 amici e gli ha fatti sposare. Ti ringrazio molto, buona giornata. Niente, ciao. Ciao, Matteo, ciao, grazie. 349-238-6666. No, aspettiamo un attimo la borsa, perché voglio raccontare un'altra cosa. Che ieri ho incontrato un signore al supermercato che mi ha detto... vabbè, sapete che vi dico, che potete mandare i racconti come volete, giusto? Mandami sta base, Rudy. Hola. Voi siete qui, @radio24.it. Però potete mandare in altri modi. Ad esempio è arrivata una lettera cartacea. Poi vi leggo un pezzo di questa ragazza che l'ha scritto. Ed è bello vederla scritta a mano. Ma ieri al supermercato ho incontrato un signore che mi ha detto: ma tu sei quello che fa il programma, eccetera. Ho visto le foto e bla bla bla. E mi ha detto: ma io c'ho una storia da raccontarti. E gli ho detto: la scriva. Lui: no, non ho tempo di scrivere. E me l'ha raccontata alla cassa del supermercato. Adesso non sto qui a raccontarlo, però idolo assoluto. Però vale solo lui, eh. Non è che adesso ci incontriamo per strada, aspetta che ti racconto una storia. Vabbè, ve la racconto un'altra volta, perché adesso c'è la borsa. C'è la Rosciani? C'è ancora la Rosciani? Debora, eh? Allora, è un minuto, eh? Non di più. La borsa e poi voi siete qui. Voi siete qui. Ciao Matteo, ho chiesto a mio cognato di aiutarmi a preparare i tavoli per una festa che avevo organizzato. Le ho fatto conoscere questa ragazza, cioè gli ho fatto conoscere questa ragazza. Oggi sono sposati, hanno due figli, dopo avermi incolpato di essersi conosciuti. 349-238-6666. Torniamo però a questa lettera che mi è arrivata in formato cartaceo. Poi tra l'altro noi non abbiamo esattamente una casella, voi siete qui, e quindi rimane nello scomparto un po' generico della radio. E allora c'è Alessandro Marco Tulli che s'aggira, ogni tanto vede queste buste così, scritto Matteo Caccia, voi siete qua, e arriva sul tavolo e dice: oh, tieni, guardala la posta ogni tanto. E questa lettera è, adesso senza farci tutte le pippe sulle storie che si scrive a mano, non si scrive più a mano, era bello scrivere a mano. Sì, è bello scrivere a mano, anche se ogni tanto non capisci quello che c'è scritto. Però quello che mi scrive questa ragazza, di cui non riesco a leggere il nome, è: ciao Matteo, spesso dici di scrivere una pagina di... una pagina di noi, ok. Ecco la mia. Ho 22 anni, pochi per tutto e troppi per molto. Cioè, mi viene una malinconia infinita. Fai di questo foglio ciò che vuoi. Il suo valore l'ha già prodotto, credo. scrivendolo. È la prima volta che lo faccio davvero e mi è sembrato giusto abbandonare e mi è sembrato giusto averti per rispondere appena un foglio di niente, non capisco cosa c'è scritto. Grazie per la tua trasmissione e auguri per tutto. 15 agosto 2011, io sono qui. La pagina è strappata da un blocco del non noto, è cosiddetto centro di formazione. Cosa sono i centri di formazione? Non probabilmente sì, vabbè, lavora un centro di formazione e le prime due righe fanno così. Avete presente Catullo? Sai, quello delle poesie molto erotiche, quello meno amato dai prof, ma quello filosofico, non quello meno amato, vabbè, non riesco a leggerle su quello che scrive, non quello amato, meno amato dai prof, ma quello filosofico, traduttore, forse superatore di Saffo. Vabbè, Viola, siccome è una ragazza e scrive da ragazza, poi tu che sei una ragazza, leggi e da ragazza traduci. Voi siete qui, chiocciolaradio24.it, lì è dove invece arrivano le mail leggibili, per il semplice fatto che sono state scritte. Ieri si era parlato di anonimato e di storie che erano arrivate, ma di cui le persone che scrivevano volevano mantenere l'anonimato. È arrivata questa mail, che io non ho letto proprio perché non era il caso di leggere. Dopo questa mail ne è arrivata un'altra. E ho capito che queste due persone che si incontrano in maniera clandestina, perché ciascuna delle due ha la propria vita, in questo caso mi scrive lei, sono in qualche modo legate da questo programma. Ed è per questo che ho chiaramente tagliata di tutto quello che deve essere tagliata. Vi voglio leggere queste poche righe. Ciao Matteo. Ieri sera ci siamo visti di nascosto, io e lui, come sempre. Il buio inganna gli occhi e inganna anche le persone che distrattamente non vedono e che non possono vedere. E lì, io e lui, ti abbiamo ascoltato in un podcast, in quel messaggio che ti avevo inviato. E tu sei, e sei stato, protagonista di alcune delle nostre risate, delle nostre complicità. È bello, sai, sapere che qualcuno in qualche modo sa di noi. Rende la cosa più vivibile, più reale. E adesso, proprio adesso, che tra poco lui avrà un figlio. Quel figlio che invece vorrei dargli io. Anche io ho un bambino e un marito. Ho una vita tranquilla, pacata. E poi è arrivato lui. Non so perché ti scrivo questo. Forse perché sei l'unico al quale potrei dire la verità. Potrei dire che tra pochi giorni, la prossima settimana, mi si strapperà il cuore quando nascerà un bambino che è parte di lui, ma non è parte di me. E oggi credo che si possa vivere di sogni con una realtà da mandare avanti. Sì, lo penso. La realtà va avanti proprio grazie a questo sogno immenso. Come immenso, adesso, è amarlo. Non vorrei però che stessimo creando dei mostri, perché ogni volta che leggiamo dei messaggi come questi o raccontiamo la storia di qualcuno, qualcuno che è all'ascolto poi magari cerca quella persona che ha scritto la storia, e con Facebook è molto facile. E è arrivata una mail di Elena, che era la protagonista di ieri, in cui diceva che dopo che aver detto che vendeva un'azienda che vende bottiglie, uno le ha scritto se vendevano anche le damigiane. Non ho capito se voleva fare affari o era un modo per provarci. 349-238-6666. Voi siete qui, chiocciolaradio24.it. Non lo faccio mai e vorrei prendermi però due secondi per ringraziare Valerio Usiello e Fabio Pini, Francesco Pini, che hanno fatto una pagina del nostro programma sul sito di Radio 24 che è straordinaria, in cui c'è, vabbè, trovate sempre tutto, il podcast lo potete ascoltare lì o in streaming, ma c'è soprattutto questa mappa a cui io tenevo molto, c'è il puntino rosso, quello per cui ha senso questo, il nome di questo programma. Voi siete qui quando ci cliccate sopra e si apre una grande mappa dell'Italia con su tutte le storie che abbiamo raccontato dall'inizio ad oggi e che continueremo a raccontare. Cliccando su ogni storia c'è un brano di quella storia, c'è la foto della persona di cui vi abbiamo raccontato e basta, direi. Ciao! Rudy, ciao vuol dire finiamo. Vuol dire che finiamo. Niente, volevo leggere un ultimo messaggio, ma evidentemente non c'è più tempo. Comunque sono quelli, vabbè, ci sono arrivati due messaggi in breve, che sono quelli che ci provavano con una e hanno fatto la Cupido perché quella se n'è andata con il loro marito, con il loro amico. E vabbè, ma quella è un'altra categoria. Grazie a Fabio Rudy Cantadori, grazie a Viola Bottoni, a Tiziano Bonini e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era quella di Leonardo, quella di lunedì invece è la storia di Paola e parla delle persone che sembrano in ritardo, ma che in realtà arrivano sempre in anticipo. E un giorno le porto il suo piatto preferito, tortellini con brodo di cappone. Lei è sempre fuori ad aspettarmi. Mi accompagna per la prima volta nella sua camera da letto, finalmente. C'è un piccolo lettino di legno nel mezzo della stanza, con delle lenzuola di lino bianco. Aprì il cassetto della specchiera. Uno spago bianco teneva insieme delle lettere ingiallite dal tempo. Erano le lettere di Gianfranco, l'uomo che le chiese di sposarla e che la corteggiava da quando lei aveva solo 16 anni.